GR24, il sole 24 ore. Sciopero ad oltranza e blocchi stradali dei lavoratori dell'Ilva di Taranto. La procura: non c'era alternativa al sequestro. Il nostro paese ha risorse straordinarie, dice Napolitano visitando a Londra Casa Italia. Stasera la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. Spending review: tasse raddoppiate ai fuori corso universitari, taglia ad auto blu e ticket di Banca Italia. Un'intera famiglia di falsi invalidi scoperta nel Torinese, lontani dal lavoro, mettevano via i bastoni e mandavano SMS. Buona giornata dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Il sequestro dello stabilimento dell'Ilva di Taranto in primo piano. Questa mattina è proseguita la protesta dei lavoratori, mentre del caso si parla anche al Consiglio dei Ministri. In diretta da Roma, Andrea Viali. Sì, buongiorno. Sciopero a oltranza e presidi in tutta la città. Sta di fatto bloccando Taranto la protesta dei lavoratori dell'Ilva dopo il sequestro dello stabilimento siderurgico ieri da parte della magistratura. Operai e sindacati sono preoccupati naturalmente per le ricadute sull'occupazione e chiedono che l'acciaieria continui a produrre. Questo mentre sempre stamattina gli inquirenti hanno invece convocato una conferenza stampa per spiegare le ragioni delle loro decisioni. Il procuratore generale di Lecce Vignola ha difeso in particolare il lavoro dei periti che hanno confermato la pericolosità delle emissioni inquinanti prodotte dall'Ilva e ha detto che non c'era altra strada se non il sequestro, sequestro che è stato comunque, ha detto, un provvedimento sofferto. La tutela del lavoro non prescinde dal rispetto della salute pubblica, ha aggiunto, gli ha fatto eco, possiamo dire, il procuratore capo di Taranto Sebastio. Come dicevi, nel caso Ilva oggi si è parlato anche al Consiglio dei Ministri. Anche il governo chiede di non bloccare le attività dello stabilimento, come ha spiegato anche il ministro dell'Ambiente Clini, che stamattina era ospite di 9 in punto. Sentiamo cosa ha detto, poi la linea può tornare allo studio. Dobbiamo fare in modo che le misure che l'azienda deve prendere per aggiornare le tecnologie, per migliorare l'efficienza degli impianti, siano compatibili con la competitività dell'impresa, altrimenti se l'impresa deve chiudere perché non ha le risorse e le possibilità di corrispondere alle prescrizioni ambientali, il risultato non è certo positivo. Queste le parole del ministro Clini e noi ringraziamo Andrea Viali. Non sono piaciute ai tedeschi le parole di ieri dell'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne sulla politica di sconti alla Volkswagen, definita un bagno di sangue su prezzi e margini. Ci racconta tutto Andrea Malan. Nuovo episodio nella lite tra Sergio Marchionne e la Volkswagen. Dopo l'intervista di ieri del manager Fiat, che ha accusato i tedeschi di abbassare i prezzi e provocare così un bagno di sangue per i bilanci della concorrenza, la casa tedesca ha chiesto le dimissioni di Marchionne dalla guida dell'ACEA, l'Associazione Europea dei Costruttori di Auto. Se non lo farà, ha detto il portavoce, potremmo andarcene noi. La guerra di punzecchiature e battute tra Marchionne e la Volkswagen risale al lungo corteggiamento tedesco all'Alfa Romeo, ma la vera battaglia è quella a livello europeo che contrappone i costruttori di auto in buona salute, per lo più tedeschi, con quelli in difficoltà che comprendono la Fiat e i francesi. Una spaccatura tra nord e sud Europa che ricalca quella sull'euro e che, come nel caso della valuta, può avere conseguenze gravi. I dossier aperti a Bruxelles sul settore auto sono numerosi e importanti, da quello delle norme sulle emissioni a quello sugli accordi commerciali con Corea e Giappone. In caso di paralisi decisionale, a rimetterci saranno i più deboli. Sul tavolo per ora non c'è la guerra dei prezzi. Bruxelles ha fatto sapere che non risultano violazioni di concorrenza da parte della Volkswagen. Andrea Malan, Radio 24, il Sole 24 Ore. Il governo tedesco è impegnato a fare ogni sforzo per mantenere insieme l'eurozona. La posizione di Berlino non è cambiata, lo ha detto il portavoce del ministro delle finanze Schäuble, il riferimento è alla Grecia. E in questi minuti il presidente francese Hollande e la cancelliera tedesca Merkel stanno invece parlando al telefono della questione spagnola, in una giornata con i listini in altalena, come ci racconta in diretta Deborah Rosciani. Sì, Pier, è stata una mattinata decisamente movimentata per le borse europee, che stanno continuando a procedere anche in ordine sparso. Sale l'attesa anche per un dato americano piuttosto importante che arriva tra poco, il dato sull'andamento del prodotto interno lordo del secondo trimestre. Cosa è successo questa mattina? Che gli indici erano partiti benino sulla parità, con l'intenzione di consolidare i forti rialzi che sono arrivati ieri e che erano stati determinati dalle parole di Mario Draghi, il numero uno della Banca Centrale Europea, che aveva detto che sarà fatto tutto il possibile per salvaguardare l'euro. Lui intendeva continuare a comprare titoli di Stato dei paesi in difficoltà. Cosa è successo in mattinata? Che è arrivata improvvisamente questa dichiarazione da parte di un portavoce della Bundesbank, la banca centrale tedesca, che ha detto no, la banca centrale europea non deve comprare i titoli di Stato europei dei paesi in difficoltà, è una missione solamente del fondo salva stati. E quindi le borse sono hanno ricominciato a scendere e lo spread è ricominciato a salire ed è ritornato stamattina a 480 punti base. Poi si è appreso invece che questa dichiarazione della Bundesbank è stata praticamente smentita. La BCE ha fatto più o meno sapere che è pronta a riprendere questo programma di acquisti dei titoli di Stato europei e le borse stanno ribalzando di nuovo. Più 1,73% Milano, più 1,25% Parigi, più 0,30% Francoforte, sulla parità Londra. L'euro è di nuovo sopra quota 1,23 sul dollaro. Lo spread è risceso di nuovo a 454 punti base. Questo è il riassunto della prima parte della giornata, Piera. Grazie Deborah. Vedremo allora come andrà nelle prossime ore. E un messaggio di incoraggiamento agli italiani arrivato questa mattina dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha visitato a Londra il villaggio olimpico di Casa Italia. Sentiamo il Capo dello Stato al microfono del nostro inviato Dario Ricci. Mi aspetto la conferma che l'Italia è un paese che ha straordinarie risorse, grandi tradizioni, naturalmente ha tanti problemi e anche punti deboli, ma che è capace di esprimere energie straordinarie. E lo sport non è l'ultimo dei terreni su cui si può dar prova di disporre di queste energie e anche di questa volontà e di questa volontà di coesione, perché insomma lì veramente c'è spirito nazionale, c'è senso dell'Italia e non ci sono distinzioni di nessun genere. E nel pomeriggio Napolitano sarà ricevuto dalla regina. Vi ricordiamo inoltre che stasera Radio 24 seguirà in diretta la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi a partire dalle ore 22. Un minuto di silenzio all'inizio del Consiglio dei Ministri in memoria di Loris D'Ambrosio, il consigliere del Presidente della Repubblica, morto di infarto a 64 anni e al centro del caso intercettazioni insieme a Nicola Mancino. Il Capo dello Stato invece da Londra non ha voluto commentare, affidando il suo dolore a necrologi su alcuni quotidiani in cui esprime rammarico per una campagna violenta ed irresponsabile di insinuazioni e di escogitazioni ingiuriose, dice, cui era stato di recente pubblicamente sottoposto. Apprezzavo D'Ambrosio, sono addolorato, così invece dice il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia. Sentiamolo al microfono di Monica Ceravolo. La notizia della prematura scomparsa del collega Loris D'Ambrosio, che io conoscevo da tanti anni e di cui ho apprezzato l'impegno professionale e ho collaborato, è una notizia che mi ha colpito e quindi esprimo il cordoglio e il mio personale profondo dispiacere. Leggo sui giornali accuse assurde contro la Procura di Palermo. So bene che nessuna persona in buona fede potrebbe mai collegare la prematura scomparsa del collega con le indagini doverose e legittime della Procura di Palermo. Lunedì al Senato comincia l'esame del decreto sulla spending review. Intanto emergono nuovi particolari. Sentiamo quali dal nostro Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così. Partiamo allora dai tempi parlamentari del decreto sulla razionalizzazione della spesa pubblica. Il testo atteso oggi in aula al Senato vi arriverà, come detto, lunedì. Proseguono infatti i lavori in commissione bilancio, visti tanti emendamenti delle ultime ore. Tra questi l'aumento delle tasse universitarie per gli studenti fuori corso, si potrà arrivare al doppio rispetto agli studenti in regola con i tempi per gli esami. Per i redditi superiori ai 150.000 euro l'aumento potrà essere fino al 100%. Si prevede inoltre lo stop ai super stipendi per i professori che rientrano in Ateneo dopo incarichi esterni. Ed ancora, i principi di tagli alla spesa contenuti nella spending review si applicheranno anche alla Banca d'Italia. In particolare si chiede all'Istituto di Via Nazionale una maggiore attenzione su auto blu, buoni pasto, ferie e permessi, consulenze esterne e canoni di locazione degli uffici. I nodi intanto apparentemente risolti in commissione bilancio, ma che saranno di nuovo oggetto di discussione in aula a Palazzo Madama, restano quello della spesa farmaceutica, il taglio delle province, i fondi a regioni e comuni, il tetto agli stipendi dei manager pubblici, probabile infine l'estensione l'estensione della platea degli esodati. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Nuovi guai giudiziari di Formigoni. Questa mattina quasi due ore di incontro fra il presidente della Regione Lombardia e il segretario della Lega Nord Roberto Maroni. Un incontro, hanno fatto sapere alla fine, che è servito a riconfermare l'alleanza. Si va avanti dunque, ha detto il segretario della Lega Lombarda Matteo Salvini, su fatti concreti per i cittadini anche dopo l'indagine per corruzione a carico di Formigoni. Per la prima volta dall'inizio dello scoppio della rivolta in Siria, forze fedeli al regime di Damasco si sono scontrate nella notte con l'esercito giordano lungo il confine fra i due paesi. Intanto continuano i bombardamenti e combattimenti ad Aleppo sotto attacco da parte delle forze leali al regime. Ci spostiamo invece in Afghanistan, dove è cominciato il ritiro delle truppe italiane. Il commento dell'inviato del Sole 24 Ore, Alberto Negri. Il Gulistan, dove è cominciato il ritiro italiano dall'Afghanistan con ripiegamento di 200 bersaglieri, è un posto difficile anche da pensare. Il nome Gulistan significa giardino delle rose e richiama un famoso poema persiano di Sa'di. In realtà non c'è niente di fiorito e poetico, una distesa aspra di sabbie e petraie ai piedi delle montagne insanguinata dagli scontri, dove l'80% della popolazione è Pashtun, quella che alimenta le schiere dei talebani. Insieme ai guerriglieri ci sono bande armate in lotta per controllare le vie dove passano le armi e la droga. È qui che sono morti due soldati italiani e altri sono rimasti feriti in passato. Gli italiani hanno dato le consegne alle truppe afghane, che non sono in grado però di presidiare questo avamposto strategico perché non dispongono né di aerei né di elicotteri. È facile prevedere che i talebani torneranno in forza nel Gulistan per mettere le corde all'esercito di Kabul. Gli italiani insieme alle NATO si preparano ad altre riduzioni di truppe fino al ritiro completo nel 2014, quando l'Afghanistan probabilmente tornerà a somigliare a quello che lasciarono i sovietici dell'Armata Rossa quando se ne andarono nell'89. Torniamo in Italia con un fatto di cronaca. Un'intera famiglia di falsi invalidi è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Torino. Intascavano tutti pensione e indennità di accompagnamento dall'82. Più di mezzo milione di danno all'INPS, come ci racconta il generale Giuseppe Gerli. Una signora di Moncalieri lavorava e quando usciva dal posto di lavoro si muoveva in maniera impacciata con un bastone per ciechi. Quando poi si allontanava dal posto di lavoro, giungeva diciamo a distanza di sicurezza, il suo atteggiamento cambiava completamente e addirittura riponeva il bastone per ciechi, che era un bastone pieghevole, nella propria borsetta. Poi la curiosità si è spinto a guardare intorno al suo nucleo familiare e abbiamo visto che anche il fratello, la madre e lo zio, residenti a Latina, percepivano un'indennità per cecità assoluta e quindi percepivano un'indennità di accompagnamento. Non erano affatto ciechi, tant'è che i finanzieri si sono intrufolati in una festa per un matrimonio dove partecipava tutto il nucleo familiare e tutto il nucleo familiare è stato filmato mentre si muoveva agevolmente tra i tavoli, mentre addirittura scattava delle fotografie oppure mandava, componeva degli SMS con il telefono cellulare. Questo GR24 è stato curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Filippo Aureggi. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.